attenzione al canale 10, c'è qualcuno? Dubbio. Chi è là? Ho acceso adesso già, ho fatto un giro canali, sentivo un po' di propagazioncina, ma niente di che. E anche io l'ho acceso in questo momento, va. Oggi mi sono fatto una pennichella perché, oh già, per l'ennesima volta, a me sembra strano, in 8 mesi la quarta sindrome influenzale, tra virgolette, io il tampone l'ho fatto, ovviamente negativo, però io ero immune all'influenza, adesso una a dicembre, a Natale, uno mese dopo, uno mese fa e una pochi giorni fa. A me sembra strano. Ma c'è una qualche infezione, no? No, apparentemente no, io sto bene, cioè non ho nulla che... La digestione è normale, l'urina è normale. Guarda, non so cosa pensare. E vabbè, prendiamola come viene. Però... Certo, mia zia che è medico, speravo in qualche risposta in più. E lei, ormai dice solo, Non lo sono manco loro. Io ti ho detto, l'infezione perché potrebbe essere quello. Ma se dici che stai bene, che sei tranquillo, non hai infezione urinaria, niente. Mal di gola. Nulla già, nulla. La gola è a posto, le orecchie sono a posto, per quanto io sia un po', sento meno di prima, col passare degli anni l'udito è diminuito, la vista è diminuita, la chicchia è diminuita. C'è un po' un ricchione adesso, dai. No, no, quella è l'unica cosa che non è diminuita, è quella, però va bene, si scherza naturalmente. Fu così ravvicinata dopo un mese e guarda che mi ha debilitato, mi sto perdendo 5 kg ogni volta che viene. Una volta pesavo 80, che era troppo però, perché era tutto grasso addominale, e adesso mi sono pesato, l'ultima volta ero quanto, 67 in mutande, insomma 67,3 kg. È poco 60, almeno 70 devi essere, 70, 72. E sai così, adesso la cosa è fresca già, magari qualche chilo lo riprendo, però all'anima, perché poi a me già non va in gambe, in braccia, anche come si distribuisce sempre sull'addome il grasso, sempre grasso addominale, che poi bene non fa, lo sai, no? E come fa a me? Io le gambe ce le ho fine. Le gambe, le braccia, sono nell'addome si accumula. E vabbè, e non fa bene, no, il grasso addominale non fa bene, il grasso non fa bene da nessuna parte, né nel cuore, né nel fegato, non fa bene da nessuna parte il grasso. Vabbè, comunque una cura dimagrante un po' l'ho fatta, gratuita, eh? Ma guarda, ho fatto anche il tampone, cosa che io non facevo mai. Per quanto siano, io scommetto che se tu di questi tamponi, anche presi in farmacia, ne prendi 10 e li fai tutti i 10 quando ti viene, scommetto che 5 segnano positivo e 5 negativo. Non si viene a nulla, boh. Io non ne ho mai fatto, sinceramente. Non ne ho mai fatto tamponi, anche perché non ho mai avuto bisogno, grazie a Dio, non mi è mai venuto febbre né niente. Solo la tosse mi è venuta quella volta, ti ricordi che avevo quella tosse secca, ma poi ho preso le gocce e mi è passato. Anzi, insomma, comunque adesso cambio la cosa, sono entrato in radio tardi, ti ho detto, sono rimasto un po' a riposare perché ieri, cioè l'altro ieri non potevo camminare, stavo a capogiro, proprio ero muro, mi dà fastidio anche la guardare la TV quasi. Ieri di botto passa il capogiro, mi sentivo quasi un leone, però poi io ho strafatto, capito? Avevo la barba lunga che sembrava Babbo Natale. Mi sono passato l'alcol dappertutto perché vabbè, di entrare nella doccia comunque non mi fidavo, da testa ai piedi tutto l'alcol col cotone, tutto pulito così. Quello deve essere profumatissimo. Vabbè, a parte il bidet, che sennò lì brucia a passare l'alcol lì. E quindi non c'è un'anima al baracchino, no? Chi altro c'è sul 10? Simboia. Natalingua, come va? Natalino. Mi hai saputo il pompugno? Perché io trovo la stessa voce di pompugno, secondo te? Vedi come si fa a far uscire? Ciao, Natalino. Eia, stavo raccontando le mie disavventure a Gianni. Io domani devo andare, cioè domani, lunedì devo andare a fare un prelievo che mi hanno chiamato, e poi martedì ne devo fare un altro. Però sempre è imminente la cosa, diciamo, dai, là, l'operazione. Cosa? L'operazione è imminente. E se non mi fanno quei prelievi non la posso. Comunque dai, fatti quelli. Poi, mamma mia. Mi chiameranno quando finisco di fare questi esami. E si fanno prima per ricovero, l'ho già fatto. Ho fatto la. E allora ci vuole poco. Per il ricovero dovrebbero passare sui 10-12 giorni. Facciamo loro. Avanti, Marco. Io li vedo che è più fresco, per fortuna. Questa settimana mi pare sia tutta più fresca, perché proprio dal caldo ne avevo le scatole piene. Tanto qua al mare sono andato due volte, sono stato da Dio, la seconda poi l'acqua era una cosa indicibile da quanto era pulita, era cristallina, nonostante fosse platamona. Di solito lì è giallina, no? Un po' torbida. Ma adesso se vai al mare è il periodo migliore, se fa un bel tempo, è il periodo migliore per andare al mare, perché non c'è nessuno, stai un bene, guarda, allucinante. Sì, perché l'ondata barbarica dei turisti è andata via. Adesso, guarda, gli studenti tornano a scuola se già non sono tornati. Non mi ricordo quando tornino a scuola. Il 10, il 15, boh. E a giugno. Ma comunque hanno mandato delle fotografie di Platamona, che la spiaggia era tutta deserta, c'erano due o tre persone. Allora devi trovare quei giorni che il mare è pulito, non scusa pulito, che il tempo è buono, perché io mi guardo, si chiama il meteo, no? Il sito, e c'è meteo Sassari per il tempo, e poi c'è meteo mare Sassari che ti dà tutte le informazioni, in questo caso di Platamona, no? Ti dice, la temperatura dell'aria, dell'acqua, del vento, l'altezza delle onde, tutto. Certi giorni tu vedi calmo, mare calmo, vai lì ed è olio, non c'è vento, corrisponde quasi sempre. Io mi baso su quello per trovare le giornate migliori per andare al mare, perché tanto andare lì e trovare vento, mangiare sabbia, oppure trovi l'acqua mossa che non ti puoi rilassare, o peggio quando c'è quella, come si chiama, quella che ti tira indietro, quella risaccami, che poi vai a nuotare e ti tira sempre più a largo. A me una volta è successo, mi ho dovuto chiedere aiuto, tanti anni fa. Già è la corrente che si forma sotto, quella lì, e ti tira, sì, è vero, ma diciamo che è più probabile che succeda verso Portoferro, che ti porti a largo proprio. Che poi quella volta, già sai perché mi è successo, perché avevo quel cavolo di tavole corte, quelle tavole in polistirolo, no? Tutte rivestite e colorate, che tu praticamente ti poggi sul petto e quando spingi con le pinne vai più veloce. Però c'era questa, io manco me ne sono reso conto, il mare tirava verso fuori e vedevo allontanarsi la riva, e praticamente in quel caso era intervenuto un bagnante. Allora il primo non ce la faceva raggiungermi, il secondo invece ce l'ha fatta con un po' di sforzo e mi ha... E la colpa era della tavola, perché era quella che pattinava sull'acqua e si allontanava sempre di più. Capito che mi ha tirato un po' lontano. Se non sei un normale nuotatore, bene o male riesci a rientrare. Comunque non era una giornata facile, perché perché il primo non è riuscito un po' a avvicinarsi, se non mi bastava chiamare, mi pare sia il 15:30, guarda costiera, ti pigliavano col coppo, tipo capitone, ti tiravano su. Sì, bisogna vedere se ti tirava su vivo o morto, in certe situazioni, a quanto stanno a venire loro, a tutto il tempo di grimba. E non so, quella la tavola, il mare gli ha dato la spinta, non male, ti ha portato a largo. A me mi era successo col pedalò, non riuscivo più a rientrare, perché si è girato il mare e lo col pedalò a largo e non riuscivo più a rientrare. Praticamente siamo riusciti a rientrare, però invece di rientrare dove dovevamo fermare il pedalò, ci siamo fermati un 150 metri più lontano. E poi la battigia l'abbiamo fatta andare, ce la portarono dove dovevamo portarlo, per dire, perché poi non ci siamo più fidati a sedere. Il mare alle volte è traditore, bisogna stare molto attenti. Oh vabbè, avevo maschera, pinne, cioè più questa tavola. Non è che magari morto, no, a meno che non morissi di freddo, ma era estate, non è bello però trovarsi in mare aperto, lì ancora ero abbastanza vicino, a portata di nuotatore normale, no? Normale ma non tanto, vedi, quello doveva essere più esperto per riuscire a raggiungermi. L'ho ringraziato tanto, eccetera. Per poco non la tronco in due quella tavola maledetta, guarda. Invece una volta a Portoferro c'è questo problema, che il mare di colpo gira e ti porta a largo. E c'è sempre un salvagente in riva con una corda lunga lunga. E praticamente abbiamo visto questo qua che alzava la mano e chiedeva aiuto. Era con una tavola da surf lo stesso. Abbiamo fatto la corda umana, praticamente ci siamo messi tutti in fila, poi l'ultimo ha lanciato il salvagente e siamo riusciti a prenderlo, a farlo ritornare in riva. Quando è tornato in riva questo qua ha detto che lo stava negando, che lo stava facendo apposta a fare così, proprio lo rifugge. Se era Grimbelli ci scendeva giù, più saliva, scendeva giù, più saliva, già lo stava facendo apposta, se non ha dato la soddisfazione di dire che stava negando. Mamma mia, e tu Nataliba, avventure in mare un po' lonfie ne hai avute? No, non ne ho mai avuto più. C'ho sempre questo salvagente attaccato, sempre, quindi non posso... Sì, adesso, ma noi stiamo parlando anni 90, 2000, quando eravamo giovani e bellissimi. No, ne ho mai avuto io. Io gli ho sempre dato del lì al mare, capito? Ma come ti girarsi? No, io la vecchia maniera, avrei dato del voi, come alla sarda, no? Ciao, Tore. Buonasera, mi stavo ascoltando. Sto facendo l'ascoltone oggi. Ciao Nathalie, ciao Gianni. Una mi si era dappata, va, me la giù ciappata, ti intendo truffa, va. Ma dico, fui agli accusati, ho detto, che si sono allungati. Ah no, già sono sempre minori la Recci, quindi già va bene come c'è io. Io dovrei fare in realtà un controllo audiometrico, ma senza scherzi, perché il mio udito è alto parecchio. Tutto male andendi, l'udito, la vista. Io ho fatto in farmacia e sono perfetto, non mi hanno trovato nessun difetto. Dovevo alzare la mano quando sentivo questo suono. Dovevi alzare la mano quando lo sentivi, no? E mi ha detto, guardi, è perfetto, perfetto, perfetto, proprio, non c'è nessun problema. Addirittura c'era un'applicazione per farci il controllo audiometrico in casa, con le cuffie però, buone cuffie, possibilmente quelle grandi, quelle Bluetooth o a filo grandi, però che abbiano l'auricolare grande in modo da riprodurre i suoni più bassi, per esempio correttamente, no? Però è una mezza fottitura, perché i suoni più importanti, quelli chiave, non te li riproduce. E quello perché? Perché devi fare l'opzione a pagamento per avere l'esame completo, per fare l'esame completo. Allora tanto vale che me lo faccia beh, in farmacia anche, buono sapersi già, anche lì mi basterebbe farlo. Naturalmente deve essere un punto della farmacia silenzioso, senza gente, a bozzi. Cosa? Portami l'imodio, chi c'è, già hai capito? L'imprenditore. L'attore dentro, a parte, questo qui è venuto per fare proprio questo servizio qua, abbiamo detto alla farmacia, se volevo farlo gratis, e lo fa. Che sia una farmacia un po' silenziosa, ciò che deve portare dentro in una camera. Ha detto che la mia farmacia c'è una stanza dove c'è anche la lettiga, tutto quanto, tipo un ambulatorio rimane, capito? A parte della farmacia c'è una stanza, entri dentro e se ti devono misurare la pressione, ti misura la pressione sul lettino, eccetera eccetera. Allora andate. Dov'è? Via Turritana. No. E via Ciriaco Carlo. Ah, su al monte. Vicino a casa, Via Ciriaco Carlo, lo sai dov'è? E la parte di su rimane. Rimane la parte di su. Noni? Via Lorenz, lo sai dov'è? Il prolungamento dove c'è la rotatoria, scendi giù e svolti a sinistra, la prima traversa c'è la farmacia. Ah, ci compri giù e ho capito dov'è. Eia. Stando a muovere. Io lì sono cliente fisso, ci vado un giorno sì, un giorno no con la farmacia, ma carità. Ah, faticosa. Per la medicina, oppure per prendermi tutto il materiale per i diabetici, oppure per una cosa, oppure per l'altra. Adesso c'è ultimamente questa sciatica, per diavare tutta l'anca. L'ultima che ho operato, cazzo, un dolore da morire. E mi sono preso quell'artiglio del diavolo, già mi ha fatto bene. Magna di... Mi domani la vengo la farmacia mia, qua alla Peloce. E poi adesso si stanno attrezzando la farmacia, adesso ci hanno potuto, ti misurano la pressione, ti misurano la glicemia, ti misurano un sacco di roba, ti fanno. Fai i tamponi, la mia. Ah, a me mi ha chiesto se volevo misurarmi la pressione, però guardi, c'ho tutto a casa, quindi non ho bisogno, faccio quello cosa per la pressione. Hanno proprio un lettino, hai detto? Sì, hanno il lettino come ce l'ha il medico. Ma non è che fanno anche massaggi con l'happy ending? Sempre, dai, quindi affidabili. Aspetta, avete parlato in due, ripeti Natali. Sì, che c'è un negro lì che ti fa il massaggio proprio affidabile. No, io voglio una signorina, possibilmente anche bianca. Tanto vale allora la signora della Crucca, a quei livelli, riprendi tu. Certo, un negro, un mangaglio. Un attore di Biagi così mi andà sempre ieri. Mo. Io già non mi muovo manco da casa. E ma non lo vuoi di fare la vagogna? Non mi vagogno io. Viaggio tagliato anche su pizzo. Sì. Se no non andava no, vero già. Ma sai che ti è tagliato? Un pezzo di vagogna. Ah, pensavo una sagossa. Mi sono proprio, non è che non funziona più. No, ho detto un pezzo di vergogna. Hai capito male io allora? Vedi che non ci senti neanche tu. No, già ci sento bene io, a Puglia. Avanti, va. Allora, io quando ho fatto il primo esame audiometrico, ero ragazzino, l'avevo fatto in qualcuno di questi specie di ospedali che abbiamo noi, ti fanno mettere in questa cabina col vetro, che è bella sigillata dal suono, e ti dà hanno un pulsante da premere ogni volta che senti il suono. Ti mettono queste cuffie, tipo quelle di tipo Mac Buongiorno, quando eri in cabina, no? E ti fanno sentire tutti i suoni, dai più bassi e con vari volumi anche, per vedere fino a che punto lo senti quando abbassano il suono o quando lo, insomma, anche in base alla frequenza sonora. E già da allora io mi ricordo che avevo un buco ai 3000 Hz all'orecchio sinistro. E io so già da cos'era, siccome io sparo sempre a capodanno, quasi sempre. Una volta mi è capitato che scarrellando con la pistola a salve mi era partito un colpo a salve proprio a fianco all'orecchio, avevo la pistola a fianco all'orecchio, ha avuto un malfunzionamento, come è andato in chiusura il carrello, ha sparato ed ero rimasto 3 giorni che l'orecchio faceva crack crack, te lo sentivi come pieno d'acqua. E secondo me il danno iniziale è stato da quello, però poi con l'età è diminuito anche l'altro orecchio, come ho detto. Quindi tante cose dovrei fare. Poi dopo 50 anni mi avevano chiamato lì dall'ASL se volevo fare il check-up per il coso del colon, per la prostata, insomma, mi volete infilare tubi dappertutto. Io se posso evitare lo evito, quando mi viene il sintomo a scosse si può curare bene, se no già c'è l'agenzia Funebre Pinna in via Coso, mi vicino a Monte Grappa. Non mi usano i tubi, il dito usano. Le dita usano, le dita. Vabbè, certe volte sì, no, per la prostata certe volte... Io avevo fatto anche un esame ecografia transrettale, praticamente c'è questa specie di cosa allungata, no? Sembra una cedda però elettronica, e loro la proteggono col preservativo, però quella vede proprio a distanza, proprio da dentro, di pochi millimetri, vede tutta la struttura della prostata. E già all'epoca c'era, mi ricordo, già 20 anni fa o più, qualche piccole tracce di calcificazione, che comunque è una cosa che è costretta, cioè è cosa a peggiorare nel tempo, dai, insomma, no, non è un buon segno, già. Cioè, non è che non è un buon segno, ma sono candidatomi, come per esempio i calcoli quando ti vengono da giovane, vuol dire allora che sei candidato a averli anche in seguito. Non manca mai, no. Sì, poi già, io sono stato abbastanza sfortunato, perché in gioventù una volta ho operato, aspetta che non bussa, un attimino. No, io l'ho fatta a 62 anni, l'ho fatta, e io non avevo che l'hanno vista e cosa, ho detto lei non c'ha nulla, e a posto come prostata e cosa. Oggi tu sei ragazza, ma vedi allagato, più che altro. Così mi ha giudito. Ecco, il resto è tutto a posto. Merda. Ah? Merda. Oggi ho preso nulla. Ho chiamato a Marco, non rispondere. Trattarino, ripeto. Non riprende seduta, non ho tanta voglia di parlare. C'ho questo dolore, la schiena mi è venuto. Va bene, dai, se non è voglia non fa nulla. Così è, bisognerebbe farlo ogni 2 anni, mi pare, l'esame. No, a me mi ha detto che mi chiamano loro adesso. Che in programmazione ce l'ho, e chiamano loro, che hanno già pronto. Agito, ho fatto che avevo 62 anni. Adesso ne ha 72, ne lo deve fare per forza, ma è compreso. Io ho capito, sì. Scusa un attimino che stavo guardando una cosa. Comunque i controlli bisognerebbe farli spesso, io ce l'ho fatto una volta solo e buco, non li ho più fatti. Io oggi sono andato ho chiamato il cardiologo, ma invece dovevo prenotare a marzo, adesso me ne sono dimenticato. E adesso medico, me lo fa la dottoressa, e vedevo andare uno dei sassetti. Ce ne fa andare, ma la dottoressa. Il mio invece mi ha inviato la visita al mio cardiologo fuori. Erano c'era in tutta Sassari, in tutta la Sardegna, tutto occupato. Niente. E come fai? Lo farò a pagamento, la balestra mi stringo i rimedi. Sì. Infatti così. Oh Giulia, aspetta, che cosa? Io mando di adesso domani mattina. Mi hanno detto di salire direttamente a Rizzillo per il medico, perché dice che non rispondono a nessuno, devi salire per forza a sapere così. Ma il medico di famiglia? No, il medico diabetologo. Perché non ce l'hai, scusa? Ah, ne hanno, secondo me l'hanno passato, che se ne è andato in pensione a marzo, si è andato in pensione e quindi l'ultima visita l'ho fatta l'anno scorso a settembre. Però non dovrebbe essere così, dovrebbe essere già quando sarebbe a quelle persone che ci sia l'altro a sostituirlo, e così gli appuntamenti che c'erano con lui se li fa l'altro dottore e continua così. Invece nulla, sono da settembre dell'anno scorso che non faccio la visita e ce la dovrei avere questo mese, invece nulla da fare. E la glicemia come ce l'hai? La glicemia l'ho misurata venerdì 97, dopo pranzo, anzi la mattina 97, dopo colazione, e dopo pranzo 116. Già va bene allora, se c'è sempre così va benissimo. Sì, in genere ce l'ho sempre così quasi, 116, dopo pranzo ce l'ho molte volte, 120, 123, ma non di più. E le mangiare? La mattina ve la giù sempre sotto, ce l'ho sempre più sotto, ce l'ho, ho 97, 86, 85. Non è che sei sotto, io non ce l'ho mai così, e la mattina quando mi alzo ce l'ho sempre alta. No, io no, dopo che faccio colazione e dopo di due ore c'ho sempre così, ce l'ho, sempre bassa. Io la mattina ce l'ho bassa, ce l'ho, poi faccio colazione perché me lo sento mi quando ce l'ho un po' alta. E quindi faccio colazione e sto benissimo. Vabbè, di due ore me la c'ha più bassa. E me ne intendo che sono a capogiro. Io lo so. Non ti accorgi quando ce l'hai molto alta. Quando ce l'hai molto alta ti dromi. Infatti, ti dromi e comincia a venire un giorno. Invece di questa maniera mangio anche qualcosa e comincio a star più bene. Il problema è a notti, che non me la devo fare, me ne non vedevo che me ne dimette ghiaccio. Rientrato. Che succede? Che mai succede? Avanti Marco, avanti, ripeti. Non so di cosa siete parlando, aveva bussato, che la volta ha chiamato al telefono il muratore per finire un lavoretto qua della colonna della cucina, dice ci sentiamo fine settimana e gli conviene venire in settimana se può perché c'è fresco, invece la prima volta quando avevamo aperto c'era un caldo che era terrificante, stava poi venuto il pomeriggio, il sole batte, era un deleterio, guarda, adesso già si può lavorare, anche di sera. Va bene, riprendete, non so se si è aggiunto qualcuno. No, il fantasma. Parici di poco bisogna sicuramente. Sicuro bisogna fare qualcuno a cucendi. Io di qualcuno. Telefono. Bianco per me. Sì. No, tra poco entra Gian Maria, entra. E lo sentiamo anche qua. Perché sta pianando in campagna? No, non lo so, non penso oggi, il vento. È qualche scroccio d'acqua, sicuramente. Ma ne sta uscendo già questo microfono, sì? Sì, esce bene, se te l'ha predetto. Allora, già funziona appunto benissimo, quindi già funziona bene. Questo con che apparecchio è? Con le... col coso, con le... Allora, il presidente con l'MP5. E il presidente, non mi va il nome, va. Non è dato di avere i amnesi. Senti, ma mica appena mi ha venuto l'amnesia di così. Oh, io sicuro non ho fatto cosa, ma le cose me le dimentichi. No, ma io lo so, non è che me ne sia dimenticato, lo so il nome, non mi veniva un lapsus freudiano. Andiamo. Dai. Marcolino, che combi? Devo ingrassare, mangio cioccolato. Cioccolato con voi gelato. L'unico cioccolato che puoi mangiare è quello fondente, amaro. Quello non ti fa nulla. Sì, ma Marco non è di avvicino. Io la sali la ci ho mangiato un pezzo di chi ci marranze come ma moglie mi dice fare come te forse a mangiarlo dice. È l'unica cosa che puoi mangiare. Non mi piace a me, no, proprio non mi piace, è più buono quello con latte senza ombra di dubbio. Oh mia, ci sono i trucchi mi dà la Ferrero buco so buono. No, non mi piace neanche mai. Non da va, io molte volte prendo tavolette di cioccolato di quello amaro. E cuociano un po' carino, e prendo quelle. Con le nocciole, così? No, senza nocciole. Senza nocciole, di quello proprio liscio. Quello grosso grosso. E insomma, un po' di voce è grosso, un po' di voce mi vedo che tu vieni. E chi è? Ma mi spero sì. No, tu chi sei? Ma mangi l'amico, chi è? È già un bambino mistero. Non sei un mistero? Forse ti fai una voce precisa. Comunque se vuoi venire a base, puoi venire a base, non c'è problema. Allora, ne approfitto, buonasera, scusate se vi ho disturbato. Mi sembrava la voce di Giovanni Mister. Tutto qua, buonasera, scusate ancora. No, non c'è problema, non disturba nessuno. Se vuoi entrare, la porta è aperta a tutti. Ok, lo so che è sempre aperta la porta, non si chiude mai. Ditemi soltanto come state arrivando, siete tutti e due a fondo scala comunque, come vi sto arrivando, scusate. Prova! 1, 2, 3, 4, 5, 6. No, 2, 20, radio 5. E l'altro amico? Salvatore! La Santa Maria di Pisa. USL, va bene, grazie, dai, Michele Polverone comunque. Mi sembrava una voce conosciuta. Ciao Michele. Ci sentiamo mica alle prossime. Gianni doppio rullo da questa parte. Ciao già, e adesso siamo vicini, dai. Adesso siamo molto vicini. Sono zona Sacro Cuore io adesso. Ok, vi ringrazio, grazie ancora, ciao Gianni, ciao Ottore, buona serata. Kappa, no, pensavo che abitassi vicino a casa. Pensavo che abitassi via tipo Ciria Coccaro, quella zona lì. No, adesso abito a Via Pascoli, sì, precisamente là, Via Pascoli. Ok, ciao ragazzi, buon divertimento. Ciao, a voi, già lo sai, non c'è problema. Ci risentiamo alle prossime, ok. Sei compreso già. Mi sembrava una voce conosciuta, però non riuscivo a capire chi era. Mi sa, dopo di tanto, ma... ogni tanto che io risento mi senti sempre una voce andante. Oh, Michele adesso è un radioamatore, forse stava provando qualche apparecchio, perché lui è un radioamatore adesso. Ah, è vero, stava dopo l'esame, ehi già da un bel po', lo metteva in camera, va, non è più travagliente, figurati da quando è che è un radioamatore. Va benissimo. Tu in casa c'aveva l'apparecchi UHF, capito? Lui forse c'aveva. E comunque era dei amatoriali. Non ne stava pesando baracchini in casa. No. Ma con dell'aria per me. Fa bene solo con il computer, attaccata agli apparati. E fa tutto lui. Allora, a me non mi piacciono quelli che fanno le chiamate, tutto quanto automatizzato, tutto registrato, tu li metti un pulsante e ti porta la chiamata. Io sono quando che sono sceso nel mese di l'ultimo di giugno giù a Porto Torres. Sono prendo tutto quello coso, tutti con il computer e cose, poi li ho trovati qua, sono salito ed erano attaccati con il computer. Ah, faccio tutto te, disegna tutto il computer, sì. Ma tu mi sei essendo più pure lei iscritto? Ce l'ho scritto e cose, però no. Ho mollato tutto. Ma ti sei iscritto? Ti sei iscritto all'associazione dei radioamatori, radioamatoriali? Che fanno non ha già pagato? Sono a pagarla a agosto, ma non li ho pagato. No, non manda più di barata giorno, dico che tu fanno. Ah, perché ti hai iscritto a Porto Torres? Sono lì, ma più ne altro. No, già ci sono, anche a Sassari c'è. Il presidente è Fabrizio Occhi di Gatto. Ah, quelli sono di Sassari. Io avevo scritto con quello di Porto Torres. Sì, ma già c'è anche a Sassari l'associazione. Non so se abbiano proprio la sede, però il gruppo radioamatori c'è. Non esaccio nulla. Ero scritto con quelli di Porto Torres e quest'anno non ho pagato nulla. Penso che scendo. E intanto cosa fai? Come se non vuole, lo puoi valutare, poi sono accusato e basta. Io ho la licenza di essere più uguale di tutto cazzo, ma da quelli però non ho più niente, non c'ho manco il ricevitore, niente, l'ho dato tutto, l'ho regalato l'ultimo. Sì, infatti non ho fatto più nulla, manco volevo dare l'esame ed è gol non l'ho dato, anche non riesco a tenere la cosa a memoria. E con l'età poi è capace che non ti ricordi quello che dici, non è più come prima, no? Che la mente era più allenata quando andavi a scuola e tutto. E infatti prima era allenato, sì, e mi ammettavo di tutto. Ah, ma invece studieggio un po' di cose la gioco, dopo di all'indomani non mi ammetto più nulla. Ci vuole un po' di crusca. No, un po' di bacini di veglia fa tenere a memoria. C'è un gioco su internet per tenere la memoria. C'è un gioco che devi formare le parole, tipo cruciverba, però ti danno delle lettere e tu devi formare le parole. E devi essere come allenamento al cervello, capito? Sì, hai una gana mio, poi ci ha giocato nell'agio mullato, mi sono rimasti due, la domanda è le due marche da bollo da 16. E vabbè, cacchi lui con l'attacchi. Sì, se no vi rivendo. Però da bacchino, è più biglia. Vabbè. Cosa vuoi fare? Se non ce la fai tu cosa devi fare? Se non è che te la regalano a parte. No, io non ho proprio perché non mi interessa, non è quello il problema. Non mi interessa perché quello che fai io per qua. Cioè, non c'ho più stimolo. Adesso ammuglia Santelli, tutto quanto, non ha più gatto. Sento che il cane, cos'è? Vuole scendere giù. E allora? L'hai sentito? Sì. A me non me lo dice così, a me mi ha baita, a me dice ma quando è che mi pare? No, io ormai facendo ho verso le 4:30, 5:15 e poi la notte verso le 9:30. Ma io lo scendo sempre alle 7:30, capito? Oggi, la si deve andare, io. Beh, ti lascio, saluto anche a Marco, visto che non è rientrato, Frattalino, tutti quelli che sono all'ascolto, se c'è Polverone, Michele, tanti saluti anche a lui. E vabbè, io vado, che se no questo qua mi gira le scatole, magari gli accusi e devi andare. Io ci sentiamo già, adesso passo sul 23. Ci risentiamo alle prossime, ok, ciao già. Ciao.